E torniamo subito in voce per questi giorni di grandi attività, di grande fervore, insomma, politico. Abbiamo in onda un compagno dell'Assemblea contro la cementificazione. Pronto, mi senti? Sì, buon pomeriggio a tutti. Ciao. A tutte. Ci vuoi, volevamo appunto ricordare delle iniziative dei prossimi giorni, se intanto le puoi presentare, insomma. Sì, innanzitutto non so se sono all'ascolto, ma mando un abbraccio veramente forte e caloroso a tutta la popolazione della Val di Susa e ai solidali che in questi giorni, insomma, sono impegnati nella difesa del loro territorio. Spero che questo gli arrivi forte, perché insomma dai Castelli Romani spesso e volentieri ci siamo mossi per andare in valle in varie situazioni, sia quelle più tranquille che purtroppo anche quelle più problematiche. Insomma, un abbraccio forte, fortissimo va a loro in questi giorni e un pensiero da parte di tutti noi. Niente, per quanto ci riguarda, domani c'è una doppia iniziativa ai Castelli, in particolare nel pomeriggio a Santa Maria delle Mole e la sera al centro sociale di Po di Marino, che riguarda contro la cementificazione, o meglio i progetti speculativi del comune di Marino e del precedente anche governo di centrosinistra che regnava a Marino, riguardante appunto una colata di cemento di 1 milione di metri cubi e di 15.000 nuovi presunti abitanti che dovrebbero venire ad abitare, devastando una delle poche porzioni di agro romano ancora intatte, e quella di via del Divino Amore, che è una via che non è vicino al santuario assolutamente, ma si trova tra via Nettunense e l'Appia Nuova, e praticamente si prevede il raddoppio dell'abitato di Santa Maria delle Mole, e quindi hanno fatto un iter burocratico totalmente farlocco, falsato, e dal 3 agosto insomma hanno palesato la volontà di fare questo scempio che, ripeto, insomma ha responsabilità attuali di centrodestra, ma anche precedentemente insomma era stato addirittura già approvato dal centrosinistra in altra forma. Niente, domani pomeriggio alle 17 c'è un'assemblea pubblica a Santa Maria delle Mole nella scuola Marotti di presentazione del ricorso presentato appunto in questi giorni al Presidente della Repubblica per numerose irregolarità riguardanti la situazione. Mentre la sera dalle 20:30 c'è una cena a sostegno di questo ricorso e delle altre spese al centro sociale Ipo di Marino. E questi sono insomma due appuntamenti per noi molto importanti. Purtroppo ci dispiace anche appunto la concomitanza di fatto con l'iniziativa pomeridiana a Roma, appunto per l'anno TAB, quindi ci sdoppieremo, insomma cercheremo di essere contemporaneamente insomma ubiqui. Come sì, si dice. Anche se l'iniziativa insomma di domani è vostra, diciamo, insomma, per capirsi, dell'iniziativa di domani ai Castelli, in qualche modo è un'iniziativa che si raccorda, immagino, no? In solidarietà alla lotta no TAB. Ci mancherebbe, insomma, ai Castelli iniziative in solidarietà direttamente con i no TAB sono stati fatti anche invitandoli a partecipare, insomma c'è stato uno scambio continuo in questi anni, hanno fatto anche iniziative qua ai Castelli, ad esempio con il coordinamento contro l'inceneritore di Albano. Insomma l'assemblea permanente no fly, quella che si batte per la diminuzione dei voli, è nata di fatto a seguito del primo campeggio a cui abbiamo partecipato nel 2006, se non sbaglio, proprio a Venaus, al campeggio quello che fanno tutti gli anni, il campeggio estivo dei Notav, quindi insomma c'è un forte e un fortissimo legame con quella terra, con quella gente, quindi sicuramente si raccorderà in solidarietà. Purtroppo ci dispiace della concomitanza, ma è una cosa già che non potevamo rimandare, e quindi domani insomma alla gente che parteciperà, insomma ai cittadini, ai comuni cittadini che magari si avvicinano appunto per difendere il proprio territorio qua a Santa Maria delle Mole, gli spiegheremo insomma che non è iniziativa solo locale, che riguarda appunto difesa della nostra parte di territorio, ma appunto si raccorda con le altre lotte già in piedi in tutto il resto del paese, a cominciare dalla Val di Susa sicuramente. Sì, e poi credo, insomma, crediamo anche noi che portare avanti le lotte contro lo sfruttamento e l'impoverimento dei territori, proprio nel proprio territorio, in quello in cui si vive quotidianamente, sia il modo migliore per sostenere anche la lotta contro la TAV, no? Esattamente, anche perché la lotta contro la TAV è una lotta contro la mafia, che ne dica il buon Caselli, insomma, che lui dice che se ne intende, ma non sembra. E anche il buon Caselli facendo... e anche il buon Bersani, perché più o meno ieri sera gli ho sentito dire una cosa analoga, insomma, rispetto a questa cosa della mafia. Beh sì, perché insomma è il loro cocco, quindi Caselli è il cocco del PD, quindi evidentemente viene sbandierato in questa funzione, insomma in funzione pro TAB. Però quello che diciamo noi, anche la lotta contro la cementificazione non solo qua a Roma e a Castelli è una cosa che bisognerebbe, come fanno i movimenti del diritto all'abitare, insomma, già benissimo, bisognerebbe approfondire, perché non si spiega tutta questa, o meglio, ce la spieghiamo questa speculazione edilizia massiccia, con case praticamente poi invendibili e invendute, perché si tratta di prezzi sempre da 3-4 mila euro, almeno dalle parti nostre i prezzi sono questi, quindi assolutamente inaccessibili a chi non ha un reddito continuo e insomma abbastanza sostenuto. Quindi evidentemente c'è un riciclo di soldi su questi aspetti, non sanno più come investirli e li investono in mattoni che poi però provocano gravi danni anche alle falde acquifere. E tra l'altro il comune di Marino, dove avverrà questa speculazione edilizia che stiamo cercando di scongiurare, è uno dei comuni che scarica nella discarica di Roncigliano, cioè quella di Albano, quindi è tutto legato il discorso, è assolutamente legato, anche perché il comune di Marino differenzia al 12%, quindi potete immaginare tutto tal quale in discarica a Roncigliano, che speriamo venga chiusa prima possibile. Certo, e poi insomma mi sembra che la vostra esperienza sia anche da mettere in connessione, no, con altri percorsi dal basso che si stanno costituendo in diversi territori proprio contro appunto la cementificazione. Ne parlavamo ultimamente anche qui dai microfoni della radio. Quello che vorremmo fare noi da parte nostra è proprio cercare di dare voce e dare spazio a tutte queste lotte che molto spesso vengono portate avanti anche da persone comuni che non sono strettamente militanti, ma che hanno a cuore il territorio in cui vivono, e quindi insomma ci fa piacere dare voce alla vostra iniziativa, ma cogliamo l'occasione anche per invitare tutti e tutte coloro che portano avanti lotte simili e parallele sui loro territori a prendere la voce dai microfoni di questa radio per raccontare i loro percorsi di lotta, nel tentativo appunto di connetterli, di valorizzare le somiglianze, insomma le esperienze che sono più efficaci per rafforzare le lotte. E sicuramente insomma ci sarà modo di raccogliere l'invito e di far presente un altro aspetto, insomma, che queste lotte non sono, almeno per noi compagni e tutto quanto, legate appunto né dalle altre vertenze né dal fatto che la società costituita così, in questa maniera, riproduce insomma le dinamiche in maniera simile nei vari territori, e si opera sempre nella stessa maniera, con la repressione, con la speculazione e con l'utilizzo anche dei fascisti, perché per farvi un breve, insomma, per collegarci insomma alla tematica antifascista, a Marino un esponente di Casa Pound è in consiglio comunale ed è uno di quelli che ha votato per questa speculazione il 3 agosto scorso, dicendo: io sono per un ambientalismo del fare, perché non sono un no inch contro l'incendio di Albano, intendeva, né un ottav che fanno solo casino e sono contro il progresso e lo sviluppo. Ovviamente questo personaggio esimio dei Castelli Romani di Casa Pound, che fa tutta questa manfrina anche loro sull'emergenza abitativa per specularci sopra, è un geometra, quindi insomma è direttamente interessato proprio dalla moneta che girerà insomma in questo territorio, quindi tanto per mettere i puntini sulle i, perché ci sembra giusto allargare appunto il discorso e non restringerlo solo a un fatto di importantissimo di speculazione ambientale, di devastazione del territorio. Sì, infatti, insomma, oltre a speculazione, repressione e fascismo, ci aggiungiamo mafia e corruzione, che insomma in genere riguardano le ditte appaltatrici e come si fanno gli appalti, eccetera, e probabilmente il cerchio si chiude. Si chiude pure a questo punto, per finire, insomma, anche con come vengono impiegati gli operai sui cantieri, insomma, cioè. Quindi è una cosa che riguarda tutto, insomma, come qualsiasi altra grande opera, cioè le dinamiche sono le stesse, vanno affrontate dappertutto nella stessa maniera, per cercare poi di poter uscire dall'ambito locale, perché aprire mille vertenze, anche come stiamo facendo qua ai Castelli Romani, insomma, tenerle in piedi non è molto, molto facile, perché comunque appunto tanta gente si avvicina, ma solamente per il proprio, diciamo, vede solo quello che c'è intorno a casa propria. E quel lavoro più grosso da fare, insomma, è allargare un attimo l'orizzonte. Certo, e grazie anche per aver ricordato la questione proprio dello sfruttamento sul lavoro, perché in particolare insomma in questi giorni, ieri abbiamo dato la notizia della morte di un ragazzo di soli 26 anni in un cantiere per la costruzione della metro C qui a Roma, e insomma è l'ennesimo caso di morti sul lavoro a cui viene relegato soltanto un trafiletto nelle pagine di cronaca locale dei giornali, e poi si continua a parlare di morti bianche quando appunto appunto sappiamo che sono morti sul lavoro e che ci dovrebbero far riflettere su appunto quali sono le condizioni in cui le persone sono costrette a lavorare nei cantieri quotidianamente. Certo, certamente. Senti, se in chiusura vuoi ricordare appunto gli appuntamenti, che oltre insomma averne consapevolezza, magari almeno per la cena da Roma qualcuno si formava, nel senso che speriamo che questo qualcuno prima sia in corteo, anzi sappiamo che questo qualcuno prima sarà in corteo, che appunto perché il corteo romano si tiene domani sabato 3 marzo a partire dalle 15 da Piazzale Tiburtino, ma appunto ricorda anche gli appuntamenti di cui stavamo parlando. Sì, alle 17 scuola Maroncelli e via Giacomo Leopardi, Santa Maria delle Mole, assemblea pubblica con avvocati e tecnici che hanno presentato il ricorso alla Presidenza della Repubblica, e dalle 20:30 cena a sottoscrizione a 10 euro all'Ipo di Marino per le spese legali e per le altre spese dell'assemblea contro la cementificazione. Bene, grazie tante e ci sentiamo alla prossima, insomma. Vi ringrazio e vi saluto con un forte a Saradura. Altrettanto. Ciao. Ciao.